Q. Ascolta e indica se senti R o doppia R. Se vuoi, trascrivi le frasi. 1. Non fare rumore. 2. Quando è il tuo turno? 3. Corre a casa. 4. Arrivò sfinito al lavoro. 5. Sono mere illazioni. 6. Si arrabbia subito.